nostro programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Quanti fatti, ragazze e ragazzi, ascoltatrici e ascoltatori, anche questa settimana sono successe moltissime. Cercate ogni volta che vi apprestate ad ascoltare Non ci sono più le mezze stagioni a fare una specie di rendiconto, ecco, di tutti i fatti che avete ascoltato, letto, visto durante la settimana, per decidere quale secondo voi la notizia, secondo voi, il vostro punto di vista della settimana, e sulla quale volete tornare a commentare. Magari avete già fatto con amici, familiari, colleghi, eccetera. Questo è lo spazio libero per le libere opinioni vostre e tra pochissimo anche dell'opinionista estemporaneo che vi presenterò. Ma vogliamo oggi fare un po' un sunto, come sempre, delle principali notizie. Poi ce ne sono molte altre, se voi sfogliate i giornali o anche internet, veramente ce ne sono che un po' riguardano ovviamente tutto il mondo. Stiamo un po' in particolare sull'Italia, anche se per esempio un'ottima notizia è la liberazione dell'operatore di emergency italiano Azzarà, che sapete era stato rapito in Sudan. Quindi una buona notizia, almeno quella c'è. Poi c'è anche una buona notizia, per esempio, per gli amministratori della regione Lazio. Almeno anche loro possono avere una buona notizia, cioè i loro vitalizi e la pensione restano a 50 anni, non vengono spostati a 60, 65, no, la prenderanno comunque sempre a 50 anni. Evidentemente nel Lazio la crisi non c'è, e i loro stipendi verranno anche indicizzati a seconda dell'inflazione. Proprio lo riporta il Corriere, un blitz dice: nella notte la Commissione Bilancio approva il testo che prevede appunto l'indicizzazione degli stipendi di consiglieri e assessori su variazione del costo della vita. Perché insomma, per fare la regione Lazio, giustamente uno dice: io devo andare in pensione a 50 anni, perché è un lavoro particolarmente, insomma, usurante. 800 24 00 24 per le vostre opinioni. E dicevo, riassumiamo un po', a parte questa che vi ho già dato, naturalmente la fiducia che c'è stata alla Camera, anche se con varie defezioni alla manovra Monti, e la novità che è principale della manovra Monti fra le modifiche è quella, per esempio, che finalmente si è deciso di agire sulle frequenze TV. Fino a poco tempo fa c'era una specie di patto, qualcuno dice sotterraneo, per cui queste frequenze ulteriori digitali devono essere regalate a Mediaset e a Rai. Invece adesso si metteranno all'asta, perché pensate che potrebbero fruttare alle casse dello Stato sino a 16 miliardi, perché regalarle appunto. Poi tra i fatti di cronaca, tanti fatti di cronaca questa settimana, purtroppo il crollo del palco del Palazzetto dello Sport di Trieste, dove cantare Giovanotti, con la morte del ventenne che sappiamo. Poi la strage di Firenze, con due senegalesi uccisi, un altro che rischia la paralisi in gravissime condizioni. La ragazza di Torino che aveva inventato questa storia dello stupro, ma non pensava ovviamente a quelle che sarebbero state le conseguenze, no? Con l'incendio del campo Rom, e poi insomma ha chiesto scusa a tutti, ha detto: io l'ho detto per paura, perché nella mia famiglia la verginità ha un valore, eccetera eccetera. E poi l'Olanda sotto shock. L'avete sentita questa notizia? Una commissione d'inchiesta ha scoperto, con varie ricerche, che negli anni in Olanda, dal 1945 al 2010, ci sono state migliaia di vittime dei preti pedofili. Poi le varie questioni dei TG, TG1, Minzolini che è stato sostituito, qualcuno dice rimosso, Mentana che aveva annunciato e minacciato di dimettersi dalla 7, c'era stato questo screzio col sindacato, poi è tutto rientrato. Scajola, l'ex ministro Scajola, è stato rinviato oggi per la questione della casa con vista su Colosseo, che non si ricordava insomma che qualcuno gliel'avesse pagata. E poi che cosa abbiamo? Anche il pacchetto svuota carceri. La ministra della giustizia Paola Severino dice: ma se proprio, intanto sono state già varate alcune misure, però lei dice: l'amnistia, se il Parlamento fosse favorevole, non ho nulla in contrario. Ecco, anche su questa cosa, una nuova amnistia, c'era stato l'indulto qualche anno fa, sareste favorevoli a un'amnistia? 800 24 00 24, ma come sempre dobbiamo anche dirci perché anche questa settimana qualcosa ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Perché? Che cosa ce lo conferma? Pensate alla Norvegia, no? Un paese freddo, insomma, civilissimo, però per riscaldarsi un po', fa benissimo, questioni di colesterolo, grassi, così via, cioè, sono grandi consumatori di burro. Loro senza burro non vivono in Norvegia. Ebbene, la crisi li ha piombati in una specie di, possiamo dire, di crisi isterica collettiva. Proprio così è successo, perché improvvisamente è mancato il burro in Norvegia. Vedete, un paese dove non è mai mancato il burro, è mancato per la crisi il burro. E pensate, c'erano veramente allarmi su internet, internet gente che entrava nella latteria e strappava il burro di mano al vicino. Allora il governo cosa ha deciso per far rientrare un po' tutta questa agitazione? C'era il contrabbando, il mercato nero di burro in questi giorni in Norvegia. Ha deciso le autorità di Oslo di tagliare drasticamente le tariffe doganali, insomma, per agevolare le importazioni. Quindi segno dei tempi. Ma adesso chi sarà l'opinionista estemporaneo di oggi, signore e signori? Giordano Bruno Guerri. Con l'urlo di tamburi. Giordano, insomma, il minimo che posso fare per te, no? Beh, la levatura. Io sparo 11 cannonate al Vittoriale per gli ospiti eccellenti, però mi rendo conto che 11 cannonate per radio non si può. No, però una me la potevi anche fare di cannonata, giusto così per essere un po' reciproci, no? Senti, ma poi le palle di piombo dove vanno a finire? Dove atterrano? A salve. Ahimè, mi costringe a confessare una cosa, sì. Che spariamo a salve. Non abbiamo il permesso di sparare con i cannoni della nave. Beh, Puglia. No, metti che una palla cada su una marmotta mentre sta uscendo dal suo buco. Non sappiamo dove andrebbero a finire i proiettili. Mi sembra prudente tutto questo. Giordano Bruno Guerri, giornalista, scrittore, storico, conduttore di varie trasmissioni TV, insegna storia contemporanea all'Università Guglielmo Marconi di Roma, è opinionista del giornale e ha scritto questo libro che mi pare un po', Giordano, in linea con vari libri che hai scritto ultimamente. Questo si intitola Il Bosco nel Cuore, che è un titolo bellissimo. Sottotitolo. È un titolo scelto da mia moglie, non a caso. Vedi, le donne, questo tocco così sentimentale, no? Epico, epico romantico. Lotte e amori delle brigantesse che difesero il Sud. Questo libro, pubblicato da Mondadori, ha un doppio merito, diciamo. Uno, perché segue quel filone che è abbastanza recente per quanto ci riguarda, mi sembra, Giordano, che si sta un po' rivedendo il risorgimento. Io non sono una revisionista, anzi, meno male che c'è l'Unità d'Italia, però tu racconti che, come altri in altri testi, in altri libri, che non è stato tutto così lineare, tutto così idilliaco, che il Sud forse è stato un po' aggregato con la forza al resto d'Italia dall'esercito sabaudo. E il secondo merito è che parli anche del ruolo che hanno avuto le donne, le brigantesse, con tanto coraggio, con tanta passione, no? Sì, Roberta, essere revisionisti non è un peccato, significa semplicemente dipende dagli argomenti. Come in tutte le attività umane, non ci si accontenta di quello che si sa e si cerca di acquisire sempre nuove informazioni. Quindi rivedere il Risorgimento, nel mio caso almeno, non significa negare la bontà dell'Unità d'Italia, anzi, ma capire i guasti che sono stati prodotti con una buona azione e cercare di eliminarli per non cascarci più e predisporre un futuro migliore. Senti, Giordano, però io adesso ti devo fare una domanda che ha un po', come si può dire, un contenuto emozionale, non vorrei destabilizzarti. Tu sei pronto, sei seduto, no, Giordano? Io sono, sì. Figurati, sì. Aperto alle emozioni. Molto bene, allora voglio sapere, Giordano Bruno Guerri, quante volte ti commuovi tu in un mese? Io, guarda, mi commuovo in un mese, mi fai una domanda troppo difficile. Beh, però, se mi dici in un'ora, forse ti posso rispondere abbastanza precisamente. 3 o 4 forse, perché... dire, ma che fa questo secondo in un'ora? Sei un commosso costante. Io ho un bambino di 40 giorni, come faccio a non commuovermi? Fermate un attimo la diretta, no, perché adesso Giordano Bruno Guerri, mi sembra che ci siamo sentiti un mese fa, aveva un bambino piccolo, ora c'ha 40, cosa continua? Come vai, c'ha tutti questi bambini? Ho un figlio di 5 anni e uno di 40 giorni. Auguri allora, ecco. complimenti complimenti a tua moglie soprattutto. Sono tornato da fuori con il bambino di 5 anni che ha fatto il primo regalo al bambino di 40 giorni, un regalo un po' smodato perché gli ha comprato un libro. Già ne fa un intellettuale, comunque un buon segno, perché di solito danno la clava in testa ai bambini più piccoli, fratelli, sì. Questo invece è un segno già di conciliazione. Che mi sto commuovendo tuttora. È comprensibile davvero, un bambino così piccolo ti emoziona tutti i giorni. Te lo chiedevo perché Elsa Fornero, sai, la ministra, sì, del lavoro in Italia, sa che si era commossa, queste lacrime qualcuno aveva giudicate sincere, qualcuno l'ha messa in scena, eccetera eccetera, ha detto questa settimana: io mi commuovo una volta al mese. Mi sembra abbastanza, cioè, una dura, insomma, una volta al mese forse, vabbè, che dipende un po' dal tipo di vita. È curiosa questa commozione ad orologio. Io ti dirò, all'inizio, appena l'ho vista, mi ha intenerito, ma poi ho detto: ma questo è un ministro, pensiamo se qualcuno piange in un consiglio di amministrazione, insomma. Ma non aggiunge umanità, Giordano, perché... Aggiunge umanità, però fa anche un po' paura, dice, ma se, sai, è bene essere guidati da persone che controllano le emozioni. Quello sì, no. Invece quello che mi ha inquietata non è che uno si emozioni e fa parte dello staff del governo, anzi dico lo sento un po' più empatico, più vicino, è che uno piange quando ti sta per presentare i sacrifici che dovrai fare. Mi preoccupa moltissimo questo, che no, quando uno ti sta per dire una cosa che ti riguarda e sta piangendo, io comincio ad agitarmi, no? Beh, certamente sì, tanto più che si riferiva alla faccenda delle pensioni minime che non venivano rivalutate, eccetera, quindi dava veramente una notizia tremenda ai più poveri. Senti, io comincerei ad ascoltare già le ascoltatrici e gli ascoltatori, perché mi diceva Giorgio De Luca, lì dalla messa in onda, dalla regia, che prende tutte le vostre centinaia di telefonate che già stanno arrivando, quindi comincio a dare spazio a chi sta chiamando, a un ascoltatore che mi dice, ha un argomento che mi stava molto a cuore, ed è Stefano, e voglio proprio Stefano in questo momento, da Milano. Stefano. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno Stefano. Mi diceva Giorgio che sei un tassista, io volevo affrontare anche proprio questo argomento, perché diciamocelo Stefano, allora tra le liberalizzazioni mancate c'è anche quella del tuo settore, perché voi subito, no, noi dobbiamo rimanere quelli che siamo, non vogliamo aumentare le licenze, le cose eccetera, però è vero che a Roma e a Milano, come diceva Aldo Cazzullo in questi giorni, è più facile che ci sia una fila di clienti che aspettano i taxi che non una fila di taxi che aspettano i clienti, quindi per avere un taxi a Roma e a Milano uno deve aggredire quello vicino della coda per riuscire. Non è proprio così. No. No, sinceramente andiamo incontro a periodi di crisi, tutti ci continuano a dire che c'è crisi, che c'è crisi. C'è la recessione. Sarà un anno di recessione, infatti. Cioè non ha proprio senso, il lavoro andrà a calare, se il taxi è già è caro. Perché siete cari, lavoro... Stefano? Perché siete cari? Scusa se te lo chiedo proprio così. La tariffa comunque viene decisa dal comune, non da noi. La devo prendere col comune. Se noi riusciamo a mantenerci per adesso, se i taxi raddoppiano, noi andiamo a fallire. Stefano, posso dirti... La Marcegaglia mi dice, come vi permettete di lamentare? Cioè, tu mi porti via al lavoro, io non devo lamentare. Stefano, scusa Stefano, però, come magari qualcuno in meno... prende Mi dà uno stipendio dignitoso, però non ci si arricchisce. Se tu mi dimezzi lo stipendio, noi falliamo. Sì, Stefano, però un po' tutte le categorie, diciamo, no? Quelle che offrono un servizio che viene remunerato al momento. È chiaro che tutti caleranno un po' in questo, però se non si liberalizza il mercato, se non c'è la libera concorrenza. Non è che liberalizzando i taxi diminuiscono le tariffe, non ha senso questa cosa. Siamo molto sicuri? Cioè, la tariffa è stabilita dal comune e quella potrà solo aumentare. Ogni tanto ce l'aumentano, sì, del 2% ogni 5 anni. Forse hai ragione, Stefano, in questo però, forse hai ragione. Però cioè, non dobbiamo... Non è che liberalizzando la tariffa diminuisce. Allora, però cioè, diciamo... I costi nostri sì, raddoppiano, ma la tariffa rimane sempre quella. Però diciamo, Stefano, magari la tariffa non diminuisce ma il numero di taxi sì, e uno non deve disperarsi per aspettare un taxi, deve andare all'aeroporto. Ma a Milano il servizio funziona, ci sono delle ore, è chiaro che se arriva in un periodo un paio d'ore alla mattina, arrivano 4 treni assieme, non ci possono essere 3.000 taxi in quel momento, che se la gente aspetta mezz'ora. Dopo 2 ore siamo noi che aspettiamo mezz'ora, tre quarti d'ora il cliente. Guarda, cioè, Stefano, è così a Milano. Si lavora tantissimo, un paio d'ore la mattina, un paio d'ore la sera, ma poi il servizio funziona. Per il resto della giornata tu ti devi muovere per trovare un posto dove fermarti col taxi. Dunque, sempre Roberta Giordano con voi, stavamo discutendo con l'ascoltatore Stefano di Milano, tassista, in questa storia delle liberalizzazioni mancate. Stefano, da parte sua, insomma, da quello che è il suo mestiere, spiegava le sue ragioni. Stefano, convincici un po' più, diciamo, stringentemente di questa cosa. Cioè, il fatto c'è poco da convincere, io vi farei vedere il mio conto in banca. Io gli farei vedere il mio, però quello magari di altri più sfortunati, cioè, decisamente. Lavorare col taxi a Milano non ci si arricchisce, lavoriamo 10 ore al giorno, il sabato e tante volte anche la domenica, e riusciamo a mantenere una famiglia, cioè, però non è che ci si arricchisce. Se tu raddoppi il numero dei taxi, noi andiamo a fallire, cioè non riusciamo più a starci dentro, è solo quello. Posso chiederti chi voti in genere, Stefano, se lo vuoi dire, non è obbligatorio. Sì, beh, io sempre votato a destra. Ecco, la destra sai che è liberale per le liberalizzazioni, quindi come la mettiamo questa cosa? Come facciamo coincidere? Insomma, per adesso l'unico che veramente mi ha fatto arrabbiare è stato Bersani. E siamo riusciti a bloccarlo. Perché più liberale dei liberali e di quelli di destra, vogliamo dire. Ah, vabbè, che ogni tanto appunto tornano alla carica con questa cosa delle persone, anche adesso ci hanno provato. Cioè, si dice come mai ci lamentiamo? Beh, noi difendiamo il nostro lavoro, solo quello. Cioè, non è che difendiamo dei privilegi. Se è un privilegio è lavorare 10 ore al giorno per mantenere la famiglia, non lo so. Senti, però, diciamo, Stefano, poi ti lascio, e ci sono tanti ascoltatori ancora. Però se tutti ragionassero così, allora ognuno si tiene la sua corporazione, il suo gruppo, la sua casta, a seconda insomma dei livelli, cioè, tutti lavorano diverse ore al giorno, c'è naturalmente chi è più privilegiato, chi è più fortunato, però se tutti ragionassero così, non vogliamo la concorrenza di altri, che si fa? Ho capito, ma noi non riusciremo più a mantenere, cioè sarebbe un lavoro che va a morire, cioè io non adesso credo, Stefano. Ogni 3-4 anni cambio la macchina, io adesso non la cambio più perché andiamo incontro alla crisi, le spese continuano a aumentare, io per adesso metterò la macchina finché non mi si staccano i pezzi. Stefano, no, perché poi dopo per quelli che trasportano è molto sicuro. Intanto ti ringrazio molto, Stefano, sì. Ti auguro in ogni caso buon lavoro, poi vediamo cosa ne pensano magari altre ascoltatrici e ascoltatori. Ettore da Modena, per esempio, poi Giordano Bruno Guerri, sentiamo cosa ne pensa di questo argomento. Ettore. Salve, buongiorno. Io volevo fare una domanda al giornalista e anche a lei. Sì. Io ho sentito la notizia prima che lei ha dato per quanto riguarda i consiglieri della Regione Lazio. È una buona notizia per i consiglieri, dicevamo, no? Sì. Io volevo chiedere questo. Ma un cittadino italiano che in questo momento sente una notizia del genere, dove magari è precario, è un cassa integrato, non riesce a arrivare alla fine del mese, che lavora un anno intero e non riesce a portare neanche il suo figlio in vacanza, che non riesce a pagare un mutuo, un affitto, e sento una notizia del genere, ma un cittadino italiano, ma cosa deve fare? Io non mi meraviglio più se qualcuno perde la testa in questo paese, perché è assurdo, dopo una notizia del genere, una persona che non riesce a vivere, arrivare a fine mese facendo 8, 9, 10 al giorno, sentire una notizia che questo ne passò 50 anni, sono pure aumentato lo stipendio. Per me è uno schifo, io chiedo scusa perché sono incazzato nero e aspetto la notizia per radio. La ringrazio, arrivederci. Grazie. Ma la risposta è stata quella che ti posso dare io, e non perdiamo la testa, questo sicuramente. Però facciamo sentire tutta l'indignazione, tutta la contrarietà, tutta l'esigenza di equità. Io tra l'altro farò nei prossimi giorni una puntata monografica sui costi della politica, quindi segui sempre Ettore e anche tutte le altre ascoltatrici e ascoltatori, poi ritroverete le cose anche sulla pagina Facebook della trasmissione. Per quanto riguarda il resto, è sicuramente indecoroso in un momento come questo. E poi diciamo che il malcontento, le manifestazioni, la pressione dell'opinione pubblica, qualcosa pianissimo sta cambiando, dei piccoli tagli e un po' di adeguamento alle pensioni dei parlamentari ai 60 anni o 65, a seconda di quando sono, di quante legislature hanno alle spalle rispetto ai 50 anni di prima, qualcosa si muove. Chiediamo senz'altro di più. Che ne pensi, Giordano Bruno Guerri? Ma io naturalmente sono d'accordo. Comincerei col parlare non più di costo della politica, ma di costo dei politici. Sì, che hai la ragione. Politica è giusto che costi. I politici si può discutere. Questi signori del Consiglio regionale del Lazio potrebbero benissimo fare politica andando in pensione a 65 anni. Certo. Quindi è un furto che loro fanno ai cittadini per un loro vantaggio personale, lo vogliamo mettere così molto semplicemente? Oppure vengono a spiegarmi perché loro devono andare in pensione a 50 anni? Può essere secondo te che lì nel Lazio sia un po' usurante questo, magari, che ne so, hanno una cantina di montaggio? Sì, magari per colpa dei tassisti che non arrivano in tempo ai consigli regionali. No? Uno tamburella con la scarpa, si consuma tutta la suola. È sempre colpa di qualcun altro. Nicola da Milano, 800 24 00 24. Nicola. Pronto? Pronto, Nicola? Sono. Stavi cucinando, sei proprio tu? Sì. Molto bene. Stavo bevendo un bicchiere d'acqua. Bene. Per schiarirti la voce un po', sì. Ho appena finito di mangiare, scusate. Che cosa hai mangiato, Nicola? Così, curiosità, visto che io non ho ancora mangiato. Io sono sempre quello che sono intervenuto altre volte dicendo che siccome sono in mobilità mi riduco ormai a riso. Ah, il riso in bianco, secco. Però sono sempre quello della mobilità, e sono tuttora in mobilità. Amen. Speriamo che si risolva la cosa. Ma io, più che altro, volevo complimentarmi con quella deputata della Lega, mi sembra, quella che si è, che durante il suo intervento davanti a Monti si è vestita da operaia. Ecco, perlomeno io dico, rispetto alla figura, diciamo pure da cani che hanno fatto i suoi colleghi, lei perlomeno ha avuto anche così il buon gusto di presentarsi per quello che era, quello che è un ex operaia, sì, era un ex operaia, quindi speriamo, diciamo, che questo abbia potuto fare, forse abbia potuto lasciare un segno maggiore rispetto alle lacrime della professoressa Formero. Non lo so, Nicola. Ma io posso dire una cosa, secondo me le lacrime della Formero sono più un fattore legato a una tensione, a un flashback privato. Vorrei dire questo, cioè io ho studiato un po' di psicologia nel tempo, mi sembrava proprio che in quel momento fossero riaffiorati dei ricordi, qualcosa legato proprio alla sua vita, magari la vita anche di sacrifici, magari della famiglia, non so, cioè ho avuto questa impressione, non tanto una questione generale. Comunque io penso che possa fare qualcosa, l'importante, diciamo, che questo governo, diciamo, non rappresenti, come si suol dire, i poteri forti e le banche, anche se ne vede aver messo dentro Passi ed altri esponenti proprio, insomma, la crema un po' proprio della costura, insomma, rettori, professori, eccetera, fatalmente si possono anche un po', come dire, escludere un po' dalla vita, non so fino a che punto non siano dentro nei problemi della gente, quindi è solo questo. Nicola, io ti abbraccio forte, tieni duro, mi raccomando. Ma attenzione a dire tieni duro, perché se magari, potrebbero pensare sempre alla Lega. No, quelli ce l'hanno duro, tu tieni duro, nel senso, resisti Nicola. Un abbraccio, ciao Nicola. No, frate, dimentico. Anzi, diciamo, per levarci da ogni imbarazzo, colleghiamoci con un altro pianeta. Va. Riflessioni da Marte. In questa settimana, quassù da Marte, osservando l'Italico stivale, si sono potuti dedurre alcuni insegnamenti di alta, direi altissima politica. Uno di questi viene da un parlamentare che, se mai ce ne fosse stato bisogno, ha sensibilmente sollevato il livello della politica italica per quindi spiaccicarlo al suolo fragorosamente. Si tratta, naturalmente, di Mimmo Scilipoti, che questa settimana non ha voluto far mancare un suo messaggio di verità e ha sentenziato: Paola Concia, deputata del PD, dice di essere orgogliosa di essere lesbica. Ebbene, in verità vi dico che anche i ladri lo sono. Non si è tuttavia capito, diciamo, se i ladri erano orgogliosi di essere ladri o di essere lesbici, ma in ogni caso. Per proseguire, il cavaliere ex presidente del Consiglio ha spiegato invece che quella di Mussolini era in realtà una democrazia minore, un bel sovraccarico di lavoro dunque per gli storici che nelle vacanze di Natale dovranno correggere tutti i testi di storia dove si parlava erroneamente di fascismo, epurazioni, leggi razziali e compagnia cantante. Nel frattempo il governo Monti, con qualche correzione affinché non sia troppo indigesta, diciamo, vara la manovra economica. Qualcuno magari osserva: ma non poteva tassare un pochino di più i grandi patrimoni? Non poteva essere più dura sull'evasione fiscale? Non poteva far pagare l'IMU anche agli immobili della Chiesa? Non poteva varare concrete liberalizzazioni? Non poteva questa manovra essere più convincente sui tagli alla politica? La risposta in realtà è molto banale. Fareste voi correre una maratona a chi, sì e no, cammina dall'ufficio al bar e dal bar all'ufficio? Certo che no. Per correre seriamente ci vuole allenamento, un allenamento comprovato. Ecco dunque la risposta. Perché far pagare chi non è abituato a farlo quando c'è già chi assai allenato in questa attività? Il segretario della CISL Bonanni assicura intanto che suo zio farebbe una manovra almeno comparabile a quella montiana. Qualcuno, credo, appresa la notizia, lo stia contattando, questo zio di Bonanni. E mentre per fortuna gli scienziati stanno individuando il bosone, la cosiddetta particella di Dio, l'ultimo elemento mancante per spiegare la struttura dell'universo, si compie una specie di miracolosa unità italica, a dispetto di Giordano Bruno Guerri. Ciò che sentirete infatti potrebbe venir fuori dalle labbra contrariate dei leghisti, e invece nel suo grido di dolore ha un'inflessione sudista, ma di contenuti sono equo solidale con i nordisti. Governo italiano, è vero buttano, c'è zucca lo sangue, a lupo vero. Li tassi chi menti, su cose trementi, che fanno tremare le spalle e i denti, c'è tassa per tutto, mangiare e ambiviri, vegliare e dormire, campare e morire, c'è solo due cose a questo momento, chi non su soggetti al tassamento. Governo italiano ti ringrazio, chi per pisciare non si paga dazio, e chi per farsi una caca cantata non c'è bisogno di carta bullata. Governo italiano ti ringrazio, chi per pisciare non si paga dazio, e chi per farsi una caca cantata non c'è bisogno di carta bullata. Eccoci con i piedi per terra e voglio anche darvi una buona notizia. Siccome la radio, tempo di crisi e poi di Natale soprattutto, ha deciso di essere buona, buona, molto generosa, darò un premio. Verso fine trasmissione vi dirò di cosa si tratta e cosa dovrete fare, mi raccomando, cosa molto cospicua, però soltanto a un ascoltatore o un'ascoltatrice, vedremo un po' i vostri riflessi, ve lo dirò diciamo un po' più avanti. Vorrei sentire brevemente Vincenzo da Roma. Vincenzo? Sì, salve. Salve Vincenzo. Buongiorno. No, io volevo ho chiamato per intervenire rispetto alla chiamata di prima del tassista di Milano. Sì. Che pensi? Non ricordo male. Sì? No, diciamo che il discorso che fa lui, sarebbe bello che tutti quanti potessero avere un lavoro garantito come pretende lui. Mm. Cioè è normale, mi sembra più che scontato che se ognuno avesse possibilità di avere il lavoro garantito. Io sono un informatico, se dicessero allora gli informatici a Roma possono essere soltanto, dico, 1000, sì, è normale che sarebbe meglio, giustamente. Per sempre lavoro per sempre, insomma, quindi mi sembra un po' assurda la sua ipotesi e la sua richiesta di dire no, così io non lavorerò più, eppure io se continuano tutti quanti a prendere intraprendere l'attività dell'informatica, anch'io rischio di perdere il lavoro, mi sembra. E ce ne sono tanti in giro di informatici, diciamo. Appunto, no? Quindi ecco, forse il mio intervento può risultare banale, però mi sembra. No, io sono piuttosto d'accordo con tutto l'affetto per i tassisti, che sono tra i nostri principali ascoltatori, con cui parlo abbastanza di frequente, insomma, quando mi capita è molto volentieri. Però, tutto sommato, Vincenzo, ti ringrazio. Mentre ricordo il numero verde per le vostre libere opinioni sui fatti della settimana, 800 24 00 24, prima di darci questa ulteriore piccola pausa, Giordano Bruno Guerri, proprio in 23 secondi, cosa ne pensi della questione dei tassisti? Ma io non posso parlare perché vivo praticamente sui taxi e mi riconoscono dalla voce, inconfondibile, per cui se dicessi quello che penso. Allora abbiamo capito quello che pensi, molto bene. Tassisti, lo sapete cosa pensa? Potete scaricarlo quando volete. E il numero verde per le vostre telefonate, le vostre libere opinioni sui fatti della settimana è sempre 800 24 00 24. Mio opinionista estemporaneo di oggi è sempre Giordano Bruno Guerri, che ha appena scritto Il bosco nel cuore, lotte e amori delle brigantesse che difesero il Sud. Leggevo la notizia di, in realtà appunto della mattinata, che si sarebbe stato arrestato, diciamo così, il presunto autore dell'aggressione all'arcivescovo di Firenze dello scorso 4 novembre. Sarebbe Elso Baschini, si era tinto i capelli per non farsi riconoscere, aveva i baffi, barba, eccetera. Pare che il suo, come l'hanno definito, profilo criminale lo rendesse compatibile con l'aggressione. Ma torniamo sui vari fatti dei giorni anche scorsi e per citarne uno mi rifarò a quello che hanno scritto ascoltatrici e ascoltatori sulla pagina Facebook della trasmissione. Ricordatevi, dovete cercare Roberta Giordano, non ci sono più le mezze stagioni. Allora, a proposito di una frase di Berlusconi di questi giorni, che ha detto: mi sono sacrificato per ridare serenità all'Italia. Ha detto: io in realtà non devo chiedere scusa a nessuno per aver sottovalutato la crisi, perché invece noi ne eravamo consapevoli, noi nel governo, ma si sa quanto conta l'elemento psicologico. Insomma, faceva come si fa un po' con i bambini, non spaventare i bambini su cose che potrebbero, no. Allora scrive Gianmario, incommentabile, scrive così, molto laconico. Michela dice: non si commenta, appunto, Alberto, eppure ritornerà, temo, anch'io penso che ritornerà Berlusconi. Poi Cantone scrive: Gli elettori del centrodestra non hanno neanche capito che Berlusconi è scappato su una scialuppa perché non voleva affondare sulla nave di cui era il capitano. E questo è un governo di tutori che amministra i beni di chi è stato giudicato incapace, questo secondo Cantone. Invece Francesco scrive: che cosa significa che se non si fosse sacrificato l'Italia sarebbe rimasta in sofferenza? Grazie dunque al suo sacrificio gli italiani hanno riavuto la serenità che avevano perso. Grazie Berlusconi, lo ringrazia Francesco. Fabrizio dice: mi aggrego, incommentabile, c'è un'evidenza oggettiva, sull'orlo del baratro ci ha portato un governo guidato da quel signore, incapace con una maggioranza mai vista di prendere decisioni per il bene anche del paese. 2 anni e mezzo a negare la crisi e poi rendersi conto che arriva uno tsunami quando bussa alla porta di casa e poi provare con 2 sacchetti di sabbia a vedere se tiene. Poca roba, non mi piace il governo Monti, scrive Fabrizio, ma fosse rimasto il signore precedente ci avrebbe già uccisi. Santina dice: concordo come sopra. Lino scrive: Berlusca, fai una magia per quest'Italia di benestanti e ristoranti pieni, scompari. Dice, insomma. Imerio scrive: la fiducia è come l'amore, diventa porcheria se viene pagata. Sonia: potevi fare gli interessi del popolo che ti ha eletto, così avresti finito il mandato, si rivolge direttamente a Berlusconi. Giulia dice: certo, tutti gli italiani avevano una tale fiducia in Berlusconi che avrebbero anche fatto una colletta pur di aiutarlo. Corrado: si è sacrificato a ciò che le banche non gli togliessero l'ossigeno e le sue azioni non crollassero. Lorenzo dice: ci vuole tutta la sua faccia tosta di venditore di fumo per sostenere quest'idea, forse una sonora sconfitta alle prossime elezioni lo farà risvegliare dal suo delirio di onnipotenza. Tutti molto critici, insomma. Lino dice: una delle tante sciocchezze, usiamo questo termine, che gli sono uscite dalla bocca a ripetizione. Enrico si è dimesso proprio per non essere sfiduciato, dice, ma d'altronde era solo mezzo mondo a chiedergli di andarsene. Poi ci sono tanti altri commenti su altre questioni. Giordano Bruno Guerri, a te volevo chiedere, sempre sulle dichiarazioni di questi giorni, ha parlato proprio in libertà, diciamo, Berlusconi, no? Come al solito. Ecco, come al solito, ha detto: leggo Mussolini, leggo le sue lettere, eccetera, mi ci ritrovo. Ha detto che quella del periodo, il regime di Mussolini è stato in realtà una democrazia minore. Ora, tu che sei storico, anche tu dovrai passare il Natale a correggere libri, cioè, oppure pensi che... che il fascismo sia stato una democrazia... anche se minore, è veramente una cosa che non sta da nessuna parte. Il fascismo è stata una dittatura che ha privato della libertà gli italiani. Poi i suoi risultati si possono valutare, alcuni sono stati benigni, la maggior parte pessimi, e forse in questo Berlusconi si può ritrovare. Io non vedo nessun paragone possibile. Se, quando poi dice però, a proposito di Claretta Petacci, dice: io ho incontrato centinaia di clarette, si sono sentite trattate come principesse. Proprio si sta immedesimando, quindi, a questo punto, no? Beh, Claretta ha fatto una brutta fine, io. Non so le altre clarette. Naturalmente che accadesse questo fino alla fine. Poi Claretta era innamorata di Benito. È vero, lo era innamorata fino alla fine, fino anche a sacrificare la sua vita. Forse le altre clarette di Berlusconi... Certo, no, ma mi sembra più interessante comunque il discorso di Berlusconi, ha fatto o non ha fatto tutto il possibile. Stiamo vedendo anche da quello che fa Monti, che l'inizio della manovra iniziata da Tremonti a Berlusconi era buona, perché viene mantenuta... e ha sortito gli effetti. Certo, bisognava muoversi prima. Allora, c'è dalla provincia, poteva fare qualcosa di più. Riccardo dalla provincia di Modena. Buongiorno. Buongiorno. Buenos dias, stavi dicendo, che dicevi, Riccardo? No, Scusate, sono un po' emozionato. No, Riccardo, siamo... Prego. Prego. Ma esempio, io ho emozionato della Fornero. Tu una volta al mese, quando chiami qua, ti emozioni, Riccardo, o ci sono anche altri? No, io è la prima volta che chiamo. Io sono un semplice titolare di farmacia che in questi giorni sono addittato facente parte della casa. Tu, è colpa tua, Riccardo, anche tu, vuoi tenerti lì i farmaci, chiusi la tua farmacia. Non vuoi che nelle parafarmacie la pensi così anche tu, Riccardo? No, io penso, se io intanto sono un piccolo titolare di una farmacia di 3.000 abitanti e non sono figlio di titolari farmacisti, per cui prometto che la gavetta me la sono fatta, e me la sono fatta anche proprio col mio mestiere e col mio lavoro. Quello che in questi giorni non mi è piaciuto non è tanto l'aspetto legato alle liberalizzazioni, di cui io sono anche d'accordo che ci voglia un ammodernamento legato ai tempi e l'accesso alla professione al massimo numero di possibile di farmacisti. Quello che oggi Federfarma ha criticato in questo decreto legge è stato quello che si regolasse il farmaco all'interno delle parafarmacie, che è una novità tutta italiana, completamente non presente in nessun paese d'Europa. E questo, su questo secondo me la sua battaglia è legittima. Potremmo dare anche, se siamo in Europa, potremmo dare anche l'esempio, però in certe cose potremmo essere anche pionieristici, diciamo, però così era la sua opinione. Siccome non mi risulta che esista un corso né laurea né in parafarmacia, laurea in paramedicina, neanche laurea paragiornalismo, io non riesco a capire perché noi vogliamo portare fuori il farmaco da quello che è una sede di competenza europea, stabilito da norme anche europee. Beh, questo potresti avere ragione, Riccardo, ma quelli che gestiscono delle parafarmacie avranno il titolo anche per farlo, non saranno dei farmacisti che, non avendo una farmacia, si spostano, diciamo, su una parafarmacia, no? Sarebbe una novità europea. Io sinceramente faccio fatica a comprenderla, ecco, se devo essere sincero, non riesco a capire perché, se nel momento in cui c'è anche una sentenza della Corte di Giustizia Europea che dà questo tipo di indirizzo, noi in Italia dobbiamo fare un indirizzo diverso da tutto quello che è negli altri paesi. Mi documenterò, Riccardo, ma insomma, se lo dici mi fido, essendo tu un piccolo titolare di una farmacia di un paese di 3.000 anime. Stanno piuttosto bene in salute? Ma sì, perché li tengo molto bene in salute. Molto bene. Io dovrei essere pagato, i miei clienti mi dovrebbero pagare per quanti giorni rimangono sani, non per quanto, non per le medicine che prendono. Grazie Riccardo, meno male, un benefattore della comunità, ne abbiamo trovato almeno uno. Grazie Riccardo. Stefano invece da Reggio Emilia, siamo sempre in Emilia Romagna, quindi. Sì, buongiorno, chiamo da Reggio Emilia, mi chiamo Stefano. È chiaro. Io volevo fare un inciso brevissimo, prima di tutto sul discorso dei tassisti, perché secondo me alcuni tassisti ne conosco, però in pochi hanno la villa con piscina, per cui lì si andrebbe comunque a colpire. Beh, secondo me, quanti italiani hanno la villa con piscina? Scusami Stefano, io davvero non ce l'ho con i tassisti, anzi, però le argomentazioni non mi convincono più di tanto se sono queste, cioè non bisogna liberalizzare perché non hanno la villa con piscina, e allora credo la gran parte degli italiani non abbia la villa con piscina. Beh, ma certo, ma io la mia idea era un'altra. Io volevo parlare un attimo degli avvocati, e secondo me c'era proprio l'esigenza di dare una regola di tariffe e di magari lavorare sul discorso delle parcelle, perché magari si possono scaricare in parte, perché anche lì c'è tanto nero, e perché possono anche essere delle tariffe anche magari legate ai risultati, perché tutti gli avvocati si fanno sempre pagare tutto prima e subito. Non tutti, io le conosco alcune avvocate, soprattutto donne, conosco, che a volte difendono, cioè delinquenti proprio, di quelli incalliti, e spesso rimangono anche senza un euro, perché poi questi alla fine non pagano nulla. Cioè, alcuni sì, alcuni quelli di grido, forse quelli con gli studi, super, non tutti. Ma forse anche per difendere, tutelare quelli più in difficoltà, perché come dice lei giustamente c'è anche chi fa fatica poi dopo a tirare i soldi, e potrebbe essere una regola magari farsi dare l'anticipo, avere delle tariffe a seconda un po' dei casi, e una regola in questo senso non c'è per questo tipo di professionisti, secondo me ci vorrebbe, perché se no lì veramente loro fanno sempre come gli pare. E vedi che ogni categoria insomma andrebbe un pochino, diciamo, no? Però io vedo che magari gli avvocati non si toccano, i notai non si toccano, i commercialisti non si toccano, e forse perché la stragrande maggioranza dei parlamentari sono avvocati, commercialisti, dottori. Beh, sappiamo che gli avvocati hanno una buona rappresentanza in Parlamento, effettivamente. Stefano, ti ringrazio. Ma adesso, prima che io, tra una corsa e l'altra, tra un ospite e l'altro, mi dimentichi questa cosa, vi dico, sto per dispensarvi, ma è meglio Radio 24, dispensarvi un regalo. Attenzione, si tratta, avete presente cos'è lo smart box, quelle scatolette che si regalano con dentro l'opportunità di avere un buono su una cosa o un'altra? Questo si chiama A Tutto Svago, e dentro si può scegliere tra arte, cultura, sport, benessere, per due persone questa cosa dentro. Attenzione, sapete che cosa dovete fare? Dovete fare velocissimamente, perché il primo, la prima che lo farà, riceverà poi questo regalo. Vi dico il numero che dovete fare, cosa dovete fare. Al 349-238-6666 dovete mandare un messaggio con scritto SmartBox. Al 349-238-6666. Poi ci penserà Giorgio De Luca a vedere chi arriva per primo. Intanto direi di sentire sì, il nostro prossimo appuntamento. Sì, perché qui il tempo stringe. E quindi chiederei a Maria Laura Rodotà, commentatrice del Corriere della Sera, che ci commenti, Maria Laura, questa settimana. Non lo so, potrei criticare il tuo programma dicendo un programma così lo farebbe pure mio zio. Tuo zio, però fammelo conoscere, che lo invito, vediamo se è in grado di ma fare no, questa cosa. Non è vero, stavo scherzando, pensavo all'ultima dichiarazione di Bonanni sulla manovra. Ma poteva essere anche tuo cugino, che mi va bene lo stesso, magari uno tira fuori un talento. Ma mio cugino è una brava persona. Quello è l'importante. Sì, no, invece per tirarci su il morale... Vorrei parlare del fatto che Facebook si farà ancora di più gli affari nostri a partire dal 22 dicembre, che è una notizia marginale che non toccherà i nostri portafogli, ma forse le nostre anime. Sì, che succede? Ma sì, perché gli italiani sono tra i maggiori frequentatori della social network. So bene. E dal 22 dicembre ci sarà questa rivoluzione di timeline. Qualcuno l'ha già installato, le nostre bacheche diventeranno delle specie di diari pubblici delle nostre vite, cioè chiunque con un paio di click potrà andare a vedere cosa dicevamo, che foto e video mettevamo anche nel corso del tempo. E questo voglio dire, sarà un diversivo per noi durante la crisi, perché usciremo meno, andremo meno nei locali e passeremo il tempo a farci gli affari degli altri. Sarà un grande affare per le imprese che compreranno da Facebook i nostri dati personali. Poi bisogna vedere cosa riusciranno a venderci di questi tempi. Maria Laura Rodotà ci ha lasciato con queste inquietudini, diciamo, ma tanto io non scrivo niente di personale, anche le ascoltatrici e ascoltatori che scrivono sulla pagina Facebook di Mezzo di Stagione, non succede niente, quindi noi rimaniamo nella nostra privacy grazie a Maria Laura Rodotà. E adesso invece vorrei sottoporre la parola della settimana, dal mio punto di vista, alla nostra Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Valeria, ti direi di tradurci questo termine che tanto timore fa, oltre a questa storia della privacy di Facebook: recessione. Abbiamo detto, siamo già in recessione. Sì. Siamo in recessione, e la parola, come sempre, come quasi sempre quando parliamo di parole, viene dal latino, dal verbo recedere, e in particolare da recessum, nel significato originario di retrocessione, ritorno indietro. Tra l'altro, in origine, nella lingua italiana, recessione ha significato movimento retrogrado dei cieli nel sistema tolemaico, e solo nel Novecento si è aggiunto il significato col quale lo usiamo ora, quindi quello di ristagno dell'attività economica, come calco dall'inglese. Ecco, dati i tempi e le cose che abbiamo ascoltato, l'unico commento che mi permetto di fare è che preferiremmo tutti, forse, poter parlare e occuparci della recessione delle galassie, che riguarda appunto l'astronomia, e invece non dover parlare, come invece siamo obbligati a fare, della recessione economica. Guardiamo verso il cielo allora, grazie Valeria Della Valle. Ciao Valeria. Giordano Bruno Guerri, abbiamo ancora fra i tanti ascoltatori, io forse riuscirò, non lo so, a far passare Claudio da Trieste, ma tu volevi, prima di un'ultima domanda proprio delle 100 pistole, volevi commentare brevemente in 23 secondi una delle notizie che magari non abbiamo trattato, o ritornare su qualcosa che è stato detto? Sentino, le liberalizzazioni, qua è chiaro che ci sono dei privilegi da intaccare, e che se non si comincia a intaccarli, sia pure gradualmente, per non rovinare per esempio chi ha comprato la licenza, non ne usciremo mai. Bisogna partire. Allora, mentre vedo che hanno scritto in circa 279 smart box, adesso chiederò a Giorgio poi di districarsi tra chi ha scritto per primo, e Claudio da Trieste, riesci in proprio, diciamo, quei 18 secondi, Claudio, perdonami, e chiedo scusa agli altri ascoltatori. Sì. Buongiorno. Sì. Allora, niente, vorrei dire che sono un tassista da Trieste, opero con questa attività da 32 anni, no? Già nel 2000 si parlava di liberalizzazione. Da un sacco, sì, sì. Infatti in certi paesi, specialmente nel nord Europa, hanno liberalizzato, come ad esempio l'Olanda, ed è stato anche il primo paese a ritornare indietro. Davvero? Cioè, ad esempio, i taxi ad Amsterdam hanno dato fuori le concessioni. Dopo un po' di anni, siccome i tassisti facevano poche corse, si sceglievano le corse, quelle più retribuite praticamente, lasciavano intere i clienti. E in pratica il comune ha dato la concessione di poter imbarcare solamente in centro, alla stazione, all'aeroporto, i vecchi tassisti, in modo che quelli che sono subentrati nuovi, piano piano si sono estinti, e ne è rimasto uno o due in periferia. Peggio del e questo panda non l'ha fatto solo l'Olanda, l'ha fatto anche altri paesi. E c'è una direttiva europea, la direttiva Bolkestein, che appunto spiega questo, che la liberalizzazione del servizio taxi porta ad avere minor taxi, meno servizio e i costi molto più alti. Claudio, allora, su certe cose si tende a prendere quello che sono le direttive europee e su certe categorie no. Mi sembra che stiamo facendo un po' la gara, cioè un po'. Grazie Claudio, hai detto le tue ragioni chiarissime, chiarissime caro Claudio. Adesso, mentre dico che poi verrà chiamato il primo ascoltatore o ascoltatrice che ha scritto Smartbox direttamente nei prossimi giorni dalla radio, lunedì, voglio fare quest'ultima domanda, mentre vi ricordo che poi la trasmissione potete riascoltarla su radio24.it o sulla pagina Facebook della trasmissione. Giordano Bruno Guerri, questa storia del bosone, quanto ti coinvolge tu, questa storia del bosone? Moltissimo, perché sono affascinato dalla scienza e dalla fantascienza. Qui siamo a metà con un più un tocco di filosofia, per cui segue il bosone più delle liberalizzazioni. Molto bene, viva il bosone, almeno che attrae completamente la nostra attenzione, argomento cruciale. Grazie a Giordano Bruno Guerri, salutaci. Grazie il tuo bimbo, i tuoi bimbi, anzi, da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.